vacanze che sperai, sorrisi e pianti miei. Promesse di allegria e sogni in cui volai, ed il primo spietato amor mio siete per me. Perduti e persi mai, mi appassionai di voi. Su di voi giurai e mi ci tormentai. Sembra niente, ma il cuore era il mio, poi c'eri tu. Vento soffierà, la pioggia pioverà, nebbia velerà, il sole picchierà, ma i ricordi non passano mai, stanno con noi. Eccoli qui. Ma che buoni quei baci tra noi, forse tu non vuoi smettere mai, per vederti mi bastano gli occhi lucidi, se ti piace, se ancora tu vuoi, nel ricordo anche senza di noi tutto torna possibile. Anche tu sei qui. Ma i ricordi non passano mai, stanno con noi. Sono molto più forti di noi.